Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, quinta e ultima favola della sesta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Petula. Poscia che furono acchetati, ordinò la signora ad Eritrea che la sua favola raccontasse, ed ella prestamente così disse. Favola quinta. Pre Zefiro scongiura un giovane che nel suo giardino mangiava fighi. Suolsi dire, carissime donne, che la virtù consiste nelle parole, nell'erbe e nelle pietre, ma le pietre avanzano in virtute l'erbe e le parole, sì come per questa mia brevissima favoluzza intenderete. Era nella città di Bergamo un sacerdote avaro, chiamato Pre Zefiro, e aveva fama d'aver gran danari. Costui aveva un giardino fuori della città, presso la porta che si chiama Penta, il qual giardino era circondato da mura e fosse, di modo che non vi potevano entrare uomini né animali, ed era ornato di diversi arbori d'ogni sorte, e tra gli altri vi era un gran figaro con suoi rami sparsi d'intorno, carico di frutti bellissimi e ottimi, di quali soleva partecipare ogni anno con gentiluomini e primai della città. Erano quei fighi di color misto tra bianco e pavonazzo, e gettavano lagrime come di mele, ed eranvi sempre guardiani che gli custodivano diligentemente. Una notte che per caso non vi erano li guardiani, un giovane ascese sopra quest'arbore, e scegliendo i fichi maturi, quelli con silenzio così vestiti nella voragine del ventre suo fedelmente nascondeva. Pre Zefiro, ricordandosi che non erano guardiani al suo giardino, vi andò volando, e subito che fu entrato dentro, vide costui che sedeva sull'arbore, mangiando i fighi a suo bell'agio. Onde il sacerdote incominciò a pregarlo che descendesse, e non descendendo, egli si gettò in genocchioni, scongiurando per lo cielo, per la terra, per i pianeti, per le stelle, per tutti gli elementi e per tutte le sacre parole che si trovano scritte, che venisse giuso. E il giovane tanto più attendeva a mangiare. Pre Zefiro, vedendo che non faceva profitto alcuno con tai parole, raccolse dell'erbe che erano lì d'intorno, e in virtù di quelle lo scongiurava che descendesse. Ed egli più in alto ascendeva, meglio accomodandosi. Allora il prete disse queste parole. Gli è scritto che nelle parole, nell'erbe e nelle pietre sono le virtù. Per le due prime ti ho scongiurato e non ti hai curato di discendere. Ora in virtù di quelle ti scongiuro che debbi venir giuso. E così cominciò a trarli delle pietre con malanimo e gran furore. E ora l'aggiungeva nel braccio, ora nelle gambe, ora nella schiena. Onde per gli spessi colpi tutto infiato, percosso e malmenato, gli fu forza a discendere, e dandosi il giovane alla fuga, depose i fighi che gli aveva ragunati in seno, e così le pietre avanzerò in virtù l'erbe e le parole. Fine della storia. Già Eritrea aveva messo fine alla sua breve novella, quando la signora le fece cenno che con l'enimma seguisse, ed ella senza indugio così disse. Vorrei, donne gentil, che mi diceste, e voi, signora, ancor con mente vera, qual di queste piuttosto prendereste con più fermezza e sicurtà sincera? La stretta ben legata? Oppur vorreste la tocca e dalle ben da prima sera? Ovver la leva ben per tempo? E questo dite il gagliardamente e dite il presto. Rimasero tutti attoniti per lo inviluppato enimma da Eritrea recitato. Né sapevano che rispondere, né qual partito apprendere. Ma astretti dalla signora che ciascaduno dicesse il parer suo, l'un diceva voler la stretta ben legata, l'altro la leva ben per tempo e altri la tocca da prima sera. Non però intendevano il significato loro. Onde vedendo Eritrea la loro discordia disse, non mi par convenevole che questa dolce compagnia sia più sospesa, ma dicole che la stretta ben legata è la tigna, la quale chi vuol scacciare fa bisogno medicarla e con la benda strettamente legarla. La leva ben per tempo dinota la cacarella, la qual fa levar di letto l'uomo innanzigiorno a scaricare il superfluo peso del ventre. La tocca dalli da prima sera s'attribuisse alla importuna rogna, la quale, com'è sulla sera, accende l'uomo di una insopportabil rabbia che si mangerebbe le carne codenti, come fece il figliuolo della vedova nella novella dalla signora Cateruzza non men dottamente che elegantemente narrata. Piacque universalmente a tutti l'ottima esposizione del nodato enimma, e presa licenza dalla signora, perciò che l'ora era tarda, tutti si partirò, con condizione però di ritornare nella sera seguente al bel ridotto. Fine della quinta e ultima favola della sesta notte. Fine della sesta notte.